Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Hanno arrestato il parroco. Si sente il passaparola di quella notizia che già ieri aveva scosso la comunità di credenti. Don Riccardo Seppi, a 50 anni, da oltre 15 prete in quella parrocchia, si trova nel carcere di Marassi con l'accusa di pedofilia. Il sacerdote sarebbe stato fermato dai carabinieri con accusa di abuso minorenne su una ragazzina di 13 anni. Il cappellano del carcere di San Vittore, Don Alberto Barin, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su 6 detenuti. Parla anche dell'azione della Chiesa contro la pedofilia il segretario generale della CEI e dice quale sarà l'atteggiamento dei vescovi italiani, accertamento tempestivo delle responsabilità, allontanamento cautelativo di chiunque sia coinvolto, avvio in tempi rapidi del processo canonico. E Monsignor Crociata assicura che non verrà... Mi rendo conto che iniziare il lunedì con un tema così pesante non è proprio il massimo. Ma mi piace parlare oggi di un libro che verrà presentato questo pomeriggio, parlarne prima che ne parlino altri. Non perché l'argomento mi appassioni in maniera particolare, l'argomento è quello degli abusi sessuali da parte di sacerdoti, di religiosi, di uomini di chiesa nei confronti di minori. Ma perché, devo dire, questa mattina vorrei fare un passo diverso rispetto alla normale, si può dire normale, alla consueta trattazione di questo argomento, che vede il problema esploso a livello cosmico, una contrapposizione fra appunto un atteggiamento a volte reticente, a volte più aperto alla Chiesa, e episodi che vengono da tutto il mondo. Questa volta vorrei parlare di microcosmo, vorrei parlare di quanti hanno avuto l'esperienza, l'impressione, il racconto, o qualcuno in famiglia o loro stessi, se hanno, come anche io, a me è capitato di ho frequentato per anni un ginnasio, un liceo gestito da preti, quindi erano episodi di cui si sentiva parlare, me non hanno mai toccato personalmente, devo dirlo in sincerità, se non l'ho raccontato questa mattina, ma c'era l'idea che comunque ci fosse uno o più preti o più religiosi a cui i nostri genitori ci affidavano pensando che fossero, nel mio caso erano gli anni del 68, quindi l'idea della mia famiglia che era il luogo migliore dove avrei potuto studiare, preservandomi da quelle che erano le insidie e le dissoluzioni del mondo in subbuglio, proprio le persone a cui uno affida come un agnellino il proprio ragazzo, la propria ragazza, pensando che sia in buone mani, trovano molte volte, molto spesso, accade, non voglio generalizzare, ma accade in una buona parte dei casi, che le persone proprio preposte all'educazione, all'attenzione, alla formazione dei ragazzi si trasformino in dei lupi mannari che di questi ragazzi fanno scempio. I sintomi sono, molte volte si dice, quel parroco quanto è bravo, quanto vuole bene i ragazzi, li porta sempre con sé. Nel caso che racconteremo questa mattina, era un prete, c'è stato un processo, è stato condannato, è stato provato il suo reato, e la vittima lo racconta in questo libro di cui vi parlerò fra poco, che aveva l'abitudine di ospitare vari ragazzi fine settimana a casa sua. I genitori li mandavano felici e contenti. Non viene mai un genitore il sospetto che in realtà forse non è proprio sano, forse non è proprio la migliore delle scelte, che ragazzi sull'età difficoltosissima, difficilissima, delicatissima, che passa dalla fanciullezza all'adolescenza, non sia del tutto sano che passi le loro serate sempre dormendo a casa di un prete? 800 24 00 24, questa è la domanda che pongo oggi, e il libro di cui voglio parlare è il libro che oggi viene presentato ufficialmente, verrà presentato questo pomeriggio, è La Preda, confessione di una vittima, la storia del più grande scandalo della Chiesa tra fede e omertà, con prefazione di Dario Fo, editore Castelvecchi, e l'autrice è Angela Camuso. Angela, buongiorno. Buongiorno. Angela Camuso la conoscete, più volte è venuta a parlare da noi delle sue opere sulla banda della Magliana, è una delle più note, stimate e perseguitate maglianologhe del nostro paese. Abbraccia adesso un altro settore altrettanto delicato che posso, senza tema di smentita, già prevedere che le darà altrettanti problemi. Cosa racconti, Angela, in questa storia? Questo libro corposo è un libro, un librone, non è un libretto, in cui racconti in prima persona la storia di un ragazzo abusato da un prete. Sì, La Preda è una storia agghiacciante in cui ogni dettaglio corrisponde alla verità storica dei fatti, ma è anche un libro che si legge come un romanzo crudo e narra, parla di un caso emblematico, un caso direi che fa diventare questa storia universale, perché il caso di un prete arrestato qui a Roma nel 2008, Don Ruggero Conti, un prete moderno, carismatico, idolatrato dalla gente, corteggiato dai politici. Don Ruggero Conti fu anche nominato delegato alle politiche della famiglia dall'allora futuro sindaco Alemanno, invitava diversi politici anche insomma nella sua parrocchia Selva Candida, ma gli abusi commessi dal prete risalgono anche a 20 anni ai 20 anni precedenti, poi questo è stato appurato dal processo, ed era anche economo della curia di riferimento, che è la curia di Porto Santa Rufina, quindi anche non era un prete sconosciuto o marginale. No, un prete che portava soldi alla chiesa, era stato anche nominato responsabile dell'edilizia di culto della curia, quindi insomma con una posizione di rilievo, di grande importanza. Ti posso fare una domanda, già prima che andiamo avanti? Mi devi rispondere sinceramente, non te l'ho mai fatta. Tu hai profonde, radicate, motivate convinzioni di principio anticlericali? No, io sono cresciuta in una famiglia molto cattolica e mi sono sposata in chiesa e ho fatto i Boy Scout da piccola. Posso dirti la stessa cosa anch'io? Anch'io mi sono sposato in chiesa. Adesso lo dico come premessa, perché non sembri questa trasmissione, che voglio che abbia la realistica e onesta crudezza di un reportage giornalistico, che ci sia dietro chissà quale disegno di screditamento. Noi siamo convinti, penso tu per prima, io sono d'accordo, dandoti il possibile di presentare questo libro con questo tempo e questa ampiezza, che faccia bene la Chiesa e i cattolici riflettere su questo aspetto e su questo fatto. Andiamo avanti. Sì, no, infatti io l'ho affrontato questo tema anche con l'occhio di una, appunto, di una persona che è cresciuta con i principi del Vangelo, quindi raccontando questa storia, scrivendo questa storia, io ho comunque cercato anche di far uscire fuori una spiritualità, una religiosità, perché c'è tanta spiritualità e tanta religiosità. Però è una storia emblematica, diciamo, nel dramma è un paradigma che si ripete continuamente, esatto. Spesso. Andiamo avanti nella storia esatta. Quindi appunto il caso è quello di Don Ruggero Conti, che viene però affrontato in modo particolare. Perché? Perché il libro alterna la rielaborazione delle vicende che hanno coinvolto il prete, quindi voglio dire il tessuto sociale e quindi c'è un'indagine rispetto alle radici culturali del caso in sé, quindi anche del fenomeno, ma dall'altra parte io ho raccolto le confessioni di una vittima, un ragazzo, uno dei 7 ragazzi che ha accusato Don Ruggero Conti di violenze sessuali. Don Ruggero Conti, ricordo, è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di carcere nel 2011. Attende l'appello è stato fissato dopo 2 anni dalla sentenza di primo grado e, piccola parentesi, il sacerdote è a piede libero attualmente e le vittime ancora non hanno avuto alcun tipo di risarcimento. Chiusa questa parentesi, il ragazzo in questione, io l'ho chiamato con un nome di fantasia, Vasco, ci siamo incontrati per mesi interi, ogni sabato pomeriggio stavamo ore in macchina, io con il registratore acceso e lui che mi raccontava la sua vita a partire da quegli anni cruciali maledetti, quindi 14-15 anni, andando indietro nel tempo. Perché io volevo innanzitutto capire per quale motivo un ragazzo apparentemente normale, senza alcun tipo di tendenza omosessuale, proveniente da una famiglia regolare, madre casalinga, padre imprenditore, 3 sorelle, non, niente droghe, niente, diciamo nessun tipo di macchia apparente, a un certo punto diventa vittima di un sacerdote, si fa violentare da questo sacerdote, diventa per 2 anni, diventa la concubina anni. Di un sacerdote a tutti gli effetti, diciamo la verità, e questo è il senso. Viene prima sedotto e poi alla fine non riesce per uscire da questa sorta di magmatica situazione. Ammesso anche che fosse, avesse avuto tutte le sue libertà di scelte sessuali, era comunque un bambino, non era una persona su cui nessuno doveva avere il diritto di esercitare un'influenza così profonda e così radicale. Ma questo è un punto fondamentale, perché qua poi si affronta il discorso della che cos'è la violenza, perché si chiama violenza, no? Don Ruggero Conti, come qualsiasi adulto, come molti adulti che abusano di ragazzini, non usava la forza fisica, però questa è una violenza, perché a quell'età un ragazzino... No, era un grande seduttore, perché cominciava a giocare su elementi molto... E usando anche quello che erano le leve del suo magistero. Iniziava tutto, e questo posso citare ricordi lontani, con la confessione, che è un sacramento. Il prete vuole adescare un ragazzino, comincia con la confessione. Comincia col chiedere con insistenza i peccati legati alla sfera della sessualità. Diventa il primo terreno comune in cui comincia la seduzione. Fermiamoci un attimo, perché voglio dare spazio ad alcune telefonate, stanno arrivando tantissimo. Vincenzo. Buongiorno, mi scusi, sono Vincenzo. Sì. Io da ragazzo, ho 63 anni, eh. Io da ragazzo andavo a scuola dai fratelli cristiani, dai frati. Uh-huh. Si diceva che il direttore era un pochino che avvicinava i ragazzi, ma si diceva. All'età di 11 anni, alla fine della quinta elementare, quando dovevo andare alle medie, mi avvicinò questo direttore, mi portò in ufficio e mi palpeggiò. Io mi resi conto che era realtà quello che si diceva a scuola. Non nascondo che per un attimo rimasi un po' così. Poi chissà, una spinta, una cosa così, mi ha dato della... ho spinto e sono scappato. Sono scappato e sono andato a casa, non ho mai detto niente a nessuno fino all'età poi di 18 anni, perché pensavo che i genitori non mi avrebbero creduto, che ero io il colpevole addirittura, magari l'avevo stato. Lei ha ricostruito, Vincenzo, perfettamente quello che è il meccanismo. Normalmente negli istituti religiosi, nelle scuole gestite religiosi, c'è sempre la voce, molte volte è la diceria, la cattiveria dei ragazzi, ma molte volte dietro la voce c'è sempre qualche esempio. Le vittime poi si conoscono, si sanno, sono i più diligenti, i più studiosi, quelli di migliore famiglia, i più delicati, sono quelli che diventano il cocchino, la cocchina del prete o anche della suora, perché c'è un caso recentissimo preso dalla cronaca di Varese, una signora che si è suicidata a 26 anni, che erano anni che veniva molestata da una suora di 52 anni, originaria di Busto Arsizio, che è stata arrestata. Dopo decenni di abusi, questa si è suicidata. Tano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Scusi se sarò veloce, però questo problema deriva dal il celibato dei preti. No, io voglio, scusi, Tano, vorrei testimonianze. Le radici non siamo qui per definirle, se è il celibato o non celibato, tutti i preti sono celibi per loro scelta. Allora, per favore, fai un programma col celibato dei preti, te lo prego, perché sì, vabbè, Tano. Il segreto è là, la Bibbia condanna il celibato dei preti. Vabbè, Tano, scusi, siamo fuori strada, scusi, ma non è questo il tema stamattina. Sara, buongiorno. Sara, chiudere la radio, per favore. Allora, Sara. Buongiorno, sì. Mi chiamo Sara. No, non che voglio fuggire, oggi parlare... Per una testimonianza. Ecco, siamo qua. Buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Allora, penso sia la prima volta che trovo il coraggio di raccontare questo episodio, sarò breve. Ho fatto le scuole a Trieste, quindi sono triestina di origini, e da ragazza avevo questo prete, diciamo che era il mio maestro di religione. A Trieste c'è uno stabilimento che è l'ultimo in Italia, dove da una parte vanno i maschietti e dall'altra i femminucci, si chiama il Pedocin. Il mio fidanzato dell'epoca, io avevo 14 anni, fidanzatino diciamo di adolescente, mi diceva, sai, trascorrevamo la giornata io da una parte, lui dall'altra, poi il pomeriggio ci si rincontrava all'uscita e dello stabilimento. Allora a un certo punto il mio fidanzatino dell'epoca Davide mi diceva, sai, c'è questo prete che comunque è simpatico, mi parla, forse non capisco che cosa vuole, te lo voglio far conoscere eccetera. Al baretto, diciamo, fuori dallo stabilimento, mi fa conoscere il prete che era Don Antonio, cioè il mio prete delle medie, il mio insegnante di religione. Facendola breve, un pomeriggio ci convoca a casa sua e purtroppo a quell'età in effetti sembra tutto quasi normale da un lato e dall'altro straordinario, nel senso che comunque a un certo punto noi ci siamo trovati con il prete, con altri due o tre ragazzini, tra l'altro di 12-13 anni e aggiungo anche quasi disabili, nel senso comunque poco normali, no, la disabilità, ma poco normali, quindi ragazzi molto fragili, e ha cominciato ovviamente ad agire in modo molto poco ortodosso. Ora non voglio entrare nei particolari. Per capire la sfera, insomma, abusava questi ragazzi. Abusava, nel senso che comunque ha cominciato ad avere dei rapporti orali con questo bambino, quindi era lui, diciamo, il protagonista, il bambino era la vittima. E naturalmente anche noi, per paura, insomma, di nessuno parlare, nessuno ha denunciato. Anche perché nessuno ha denunciato, e non solo. E nel frattempo questo prete è diventato il parroco di Cervola. E come è andata a finire? E come è finito? È andata a finire che io ora ne sto parlando forse per una, forse la seconda, terza volta della mia vita. E perché chiaramente poi queste cose, o vai lì, denunci, a casa non abbiamo mai parlato, anche un po' per paura, anche perché sembra quasi colpa tua, anche se comunque hai fatto parte di un pomeriggio particolare, insomma, no? E quindi anche per paura del rimprovero della famiglia, poi vivevo con i nonni, figurarsi. Quindi ecco, insomma, volevo solamente raccontare. Grazie, leggo qualche sms. Gianluca, me anni fa il mio don mi comprava CD, mi invitava a pranzo, mi faceva ricarica, eccetera, eccetera. Capì subito cosa voleva. Lo mandai a spigolare, sono tutti uguali. Non è vero, sono tutti uguali. 33 anni, elementari, il prete insegnava che erano i maschi, ci picchiava, le bambine se le metteva in braccio. Mia sorella ci manda ancora i bambini. Il nostro parroco alle medie ci mette le mani sul sedere, dentro la tuta di ginnastica e dentro le mutande. Angela Camuso. Sì, volevo dire innanzitutto che tutti gli interlocutori hanno centrato il problema, e questo libro non a caso si chiama La Preda. La Preda perché? Perché questo sacerdote in particolare, come sacerdoti che agiscono come lui, individuano le prede tra all'interno di un bacino di ragazzini di cui si circondano. Non a caso i preti accusati di questo genere di comportamenti quasi sempre sono preti eccezionali nell'attività pastorale e nell'attività di coinvolgimento di giovani nelle attività parrocchiali. Fermati un minuto. Don Gino Rigoldi, buongiorno. Eccomi qua. Cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, fondatore della comunità Nuova Ollus, che si Io occupa... Io vivo con 12 o 13 ragazzi del carcere a casa mia, perché mi porto il lavoro a casa. Ecco, lei se li tiene a casa, però diciamo... Però non ha toccato il culo a nessuno. Bravissimo, Don Rigo, questo le fa onore, ma dovrebbe essere così di regola. Don Rigoldi, stamattina facciamo una trasmissione che è spinosa e fastidiosa, uno ci pensa tante volte prima di farla, però forse è il caso che qualche prete come lei, che può portarsi i ragazzi a casa senza che corrano il rischio che gli metta le mani addosso, è giusto che faccia un distinguo e dica come si deve occupare, preoccupare e comportare un genitore in casi come questi. Beh, intanto cominciamo a dire che questo fatto di preti che toccano di qua e di là non è un'epidemia, e sono dei casi anche numerosi, pare di sentire anche degli sms che arrivano, ma comunque non credo che sia un'epidemia. Anche, assolutamente no, per fortuna. Perché poi c'è un po' di persone che, insomma, io ho già fatto un'altra trasmissione del genere, che mi dice 20 anni fa, mi ricordo 30 anni fa, mi ricordo... Vabbè, questa era la prima... Secondo lei è diminuito, il problema aumentato? Tanto per... Io non ho idea di come sia diminuito o aumentato. Se guardo chi è finito in galera, direi che i numeri sono sempre modesti. Però, come giustamente si diceva prima, molta gente non denuncia, si sente colpevole invece che sentirsi invece aggredita. Poi i personaggi sembrano pericolosi o troppo prestigiosi per essere denunciati. Quindi io non saprei dire il numero come sia. So che i preti devono, le autorità, ma anche i preti singolari, devono mettere un punto, cioè sapere un po' in che maniera possono essere educatori, possono essere vicini ai giovani. Io direi, però, anche pensando al libro della giornalista che avete di voi, questo, Angela Camuso, sì, questo Don Riccardo, no? Lì c'erano stati tanti Don Ruggero, sì. C'erano stati tanti segnali di comportamenti strani, tanti segnali che non hanno portato a niente. Poi a un certo punto è arrivata la denuncia e ha preso 15 anni di galera, mi pare, una roba del genere. Sì. Io credo che però qui bisognerebbe che, vabbè, intanto sono del parere, diversamente da quello che dice mi pare un documento anche Vaticano, che se tu vedi un prete che fa il pedofilo con un minore, devi denunciarlo alla... alla questura, mica a chissà chi. Cioè un delinquente comune, non è che deve avere una garanzia rispetto a altre persone. No, prete o non prete, devi denunciarlo, che vale. No, lo diciamo i superiori, già, poi abbiamo visto i superiori che trasmissione di poi... Allora, Dori Goldi, fermiamoci solo un secondo, devo mandare le informazioni della borsa. 800 24 0024, parliamo del libro La Preda, Confessione di una vittima, di Angela Camuso, editori Castelvecchi, che tra l'altro sarà presentato oggi a Roma alle 15.30 alla sede della Stampa Estera. Libro che parla di un fatto vero di cronaca, di un prete che ha abusato vari ragazzi minorenni e per questo è stato condannato in prima istanza a 15 anni di carcerazione, avrà l'appello fra 2 anni. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io chiamavo per questo motivo. Allora, io ho 50 anni e quando ero piccolo, a 7-8 anni, andavo in colonia perché mio padre lavorava in un'azienda del gruppo Eni che organizzava tutti gli anni per i bambini chiaramente la colonia. C'era il mare e la montagna, io andavo in montagna. Questa colonia era tenuta dai salesiani. Era una colonia, cioè devo dire, dal punto di vista proprio da bambino era bellissima perché c'era un sacco di attività, campi di calcio, basket, pallavolo, tutto e attività ricreative legate, non so, alle piccole attività manuali, insomma. E proprio in questi, diciamo, capannoni, chiamiamo così, dove c'erano diversi responsabili, io ho cominciato a fare, insomma, facevo questa attività come tutti i miei coetanei e man mano che si lavorava c'erano queste persone, questi salesiani che ci aiutavano, no? Magari ci prendevano in braccio, ci facevano usare bene le matite e poi cominciavano a baciare e cominciavano a toccare. Poi all'inizio, vabbè, poi chiaramente visto col senno del poi di un adulto che rivede tutte queste cose nella sua memoria, è chiaro ed è lampante che insomma le cose non erano esattamente corrette. Diciamo che per un bambino è difficile capire quello che è un paterno gesto di affetto a una morbosa attenzione. Esatto, anche perché finché si stava in braccio, si lavorava e così, no? Ti tenevano in braccio magari anche 2 volte, poi cominciavano magari a darti, non so, il bacino sulla guancia, così poi, però c'era sempre 2 in particolare che erano i più scatenati. Erano un po' scatenati, insomma, no? Quindi volevano magari il bacio sulla bocca, volevano... Guarda, io ho fatto 5 anni da salesiani, quindi conosco l'argomento senza... Mi permetterei mai di gettare onta, però in generale tutti quelli che hanno studiato in questi collegi hanno episodi del genere. Poi può essere che affondino nella mitologia tipica dei ragazzi, nella capacità mitopoietica che hanno i ragazzi, o pare che ci possa essere un fondo di verità. Daniela? Buongiorno. Io volevo portare il punto di vista di una mamma di un ragazzo che si è trovato a vivere questa situazione proprio con Don Ruggero, cioè non ha subito nulla, cioè mio figlio frequentava la parrocchia e Don Ruggero aveva appunto questa abitudine di invitare a casa sua e far dormire lì dei ragazzi. Io ho dovuto lottare e litigare con mio figlio per tantissimo tempo perché gli ho sempre vietato di andare sia a casa che a dormire. Lui mi ha rinfacciato per anni il fatto di non essere riuscito a integrarsi col gruppo dei suoi coetanei. Che ci andavano tutti invece. Che ci andavano. Perché io mettevo questo... Beh, oggi gliene sarà grato in parte suo figlio, penso. Allora, quando è uscita questa storia, io, come dire, ho voluto rivendicare il mio te l'avevo detto, però devo dire che per anni lui, nel fatto di non essere riuscito ad entrare in quello che era il giro degli eletti, perché c'era questa capacità di far sentire questi ragazzi, tra l'altro ragazzi che non, come mio figlio, non è che avessero particolari problemi familiari, ragazzi normalissimi. Diciamo era il luogo che segnava eletti, l'appartenenza a un'elite nel quartiere, nella parrocchia. A un'elite. Sentiamo un attimo Angela Camuso, perché nel tuo libro ne parli con... Non è che ogni volta si scatenasse un baccanale, perché si divertivano anche molto lì. Erano uscita dalla famiglia, stavano lì, erano abbastanza liberi. Poi, naturalmente, c'erano quelli prescelti per il passo ulteriore. Sì, no, la signora ha detto bene, c'erano gli eletti di Don Ruggero e Don Ruggero si era creato un gran consenso, un consenso non solo da parte dei ragazzi, ma da parte dei genitori dei ragazzi, era amico dei genitori dei ragazzi, ed ecco perché poi è stato così difficile. Quando ci fu la sentenza, che è successo? Beh, è stato un processo che ha diviso in due l'opinione pubblica, c'è stato un gruppo di innocentisti che ancora esistono, ci sono, che sicuramente si staranno ascoltando, hanno manifestato anche davanti a San Pietro, c'erano recite secondo del te, Rosario. Secondo te sono sinceramente convinti gli innocentisti? Beh sì, allora dunque... Fondamentalmente sì, il dramma è quello, nel senso che Don Ruggero è stato così bravo a farsi voler bene dalle persone che gli servivano, che in qualche modo per queste persone, anche quando è stato arrestato, è stato quasi impossibile. Lui tuttora si professa innocente. Esatto, lui tuttora è stato quasi impossibile per queste persone riconoscere il mostro, ma io addirittura ho intervistato la mamma di due ragazzi che hanno dichiarato di essere stati violentati da Don Ruggero negli anni 80. Chiaramente nel loro caso il reato è stato prescritto, era prescritto, quindi non c'è stato neanche, voglio dire, il dibattimento su quei casi specifici, però sono all'interno delle carte d'indagine. E questa madre mi ha detto, di Legnano, perché Don Ruggero ha iniziato questo tipo di comportamenti quando faceva l'educatore in questo oratorio a Legnano di San Magno, che era un oratorio innovativo, proprio perché appunto era un cosiddetto oratorio di famiglia, dove c'erano appunto tutta questa serie di attività che coinvolgevano la comunità. Ecco, questa madre mi dice io quando è stato arrestato Don Ruggero non ci ho creduto, ci ho creduto soltanto dopo che me l'hanno detto i miei figli, però nonostante questo io voglio ancora bene a Don Ruggero, perché Don Ruggero è una persona che ha fatto talmente tanto bene alla gente che quel po' di male che ha fatto tutto sommato non è paragonabile al bene che ha fatto. Addirittura ci sono vittime che sono state violentate da Don Ruggero, che lo hanno denunciato e che però poi gli hanno scritto in carcere dicendo: caro Don Ruggero, io ti ho denunciato ma ti voglio ancora bene. Vittime che si sono fatte battezzare i propri figli e si sono fatte sposare da Don Ruggero e nonostante questo hanno dichiarato di essere vittima. E io voglio chiudere dicendo alla signora, se legge il dramma, il buio in cui sono sprofondati questi ragazzi, vittime di Don Ruggero, il buio in cui è sprofondato Vasco, la solitudine che ha vissuto a causa di queste violenze quando era 14enne, allora forse lei veramente è stata una madre che ha salvato suo figlio. Don Gino Rigoldi, abbiamo ascoltato sia dalla Camuso, cioè da questa signora, è caduto Don Rigoldi, vabbè, poi se lo recuperiamo sentiremo Don Rigoldi. Trovo abbastanza sconvolgente ma comprensibile, accade nei grandi processi con i grandi plagiatori, i grandi santoni, i grandi maestri di vita, i grandi stupratori, trovano sempre delle vittime che poi alla fine, nonostante sono talmente profondamente legate da un rapporto di dipendenza, che tendono ad assolverlo perché sentono in sé la colpa probabilmente di quello che è accaduto e non vedono la colpa della persona che le ha abusate. Nicoletta. Buongiorno. Buongiorno, io volevo testimoniare il mio accaduto. A 9 anni ero in vacanza in montagna in un piccolo paese natale di mia madre e frequentavo la casa parrocchiale perché la zia di mia madre era la perpetua del paese, quindi è una persona assolutamente di famiglia e conosciuta. Un giorno, era estate, il parroco mi invita alla confessione, mi porta nella chiesa, non c'era nessuno, e mi propone di confessarmi come si faceva in quei tempi, le donne con la grata, gli uomini invece entravano nel confessionale. Mi propose, visto che c'era confidenza, ero di famiglia, d'entrare nel confessionale. Esatto. Quando sono entrata, lui ha fatto per mettermi una mano nelle mutande per invitarmi a questo tipo di gioco, come lo chiamava lui. Io sono grata. Lei quanti anni aveva? Scusi, 9 anni? Io avevo 9 anni. Io sono grata a mia madre perché per un episodio che durante l'anno prima c'era una macchina sospetta fuori dalla scuola, eravamo state avvisate dai nostri genitori di stare molto attente perché c'era un personaggio un po' strano e le maestre quindi avevano invitato i genitori. Avete gli strumenti giusti per ribellarvi. Esatto, a questo. Quindi io, grazie a questo e anche al carattere un po' battagliero, Mi ricordo che quando lui ha fatto per mettermi la mano nelle mutande, Piavino, adesso facciamo un gioco, gli ho sferrato un cartone sul viso, lui non se l'aspettava, chiaramente gli avevo fatto male, sono uscita, mi sono messa a urlare che era un maniaco e sono corsa subito in sacrestia nella casa avvisando la prozia. Lei rimase sconcertata, io corsi subito a casa, avvisai mia madre, c'era un mio zio, un ragazzotto giovane. Vabbè, adesso come è andata a finire? Abbiamo capito, però l'episodio c'è stato, lei faccia parte dei... Grazie a una madre che mi aveva anche con modo giusto messo, diciamo... Sì, ma è chiaro, Nicoletta, è inutile adesso per dire, mi sembra aver capito che esistono due categorie di probabili vittime. Quelle che naturalmente sono all'oscuro, sono come probabilmente il protagonista del libro La preda di Angela Camuso, che lentamente entrano in un giro seduttivo, vessatorio, di violenza, non sanno ribellarsi, si paralizzano, mentre loro si domandano... Non parlano a casa, anche se non hanno interlocutori, non tutti i genitori sono come la madre della nostra ascoltatrice che dice se un uomo ti mette le mani addosso, dagli uno schiaffo, scappa via e urla. Molti stanno zitto, tu hai detto delle madri che addirittura nonostante... la prova dei figli stuprati dal prete continua a dire ma nonostante questo era una brava persona. Sì, no, questo è sconvolgente. C'è anche una cosa che accomuna questi ragazzi, almeno le vittime di Don Ruggero, Vasco e gli altri, l'assenza affettiva del padre. Spesso sono Vasco aveva un padre che lui percepiva assente, anche se appunto in realtà il padre provvedeva ai loro bisogni materiali, eccetera eccetera. Ci sono altre vittime di Ruggero che avevano padri comunque diciamo non presenti a casa perché separati dalle madri, padri morti. Questi ragazzi quindi si trovano in un periodo dell'adolescenza in cui non hanno una figura maschile di riferimento, un po' o perché appunto non c'è o perché non la riconoscono o perché il padre è una figura semplicemente vista come una figura superiore verso la quale loro non si sentono all'altezza, quindi si interrompe il rapporto affettivo con il padre e a quel punto si ricerca nel prete un secondo padre e a quel punto si entra diciamo in una dimensione onirica, diciamo fantasiosa, in cui si crede di essere stati prescelti da questo padre che si presenta sia come un padre che come un amico e quindi è il padre perfetto. Sì, prima di entrare nella sfera propriamente sessuale. Esatto, passa e quindi tempo, a quel punto questi ragazzi cominciano ad innamorarsi nel senso puro del termine di questo padre, certo. Quindi gli vogliono bene, si sentono protetti da questo, dal prete padre e quando a un certo punto il prete padre mostra un'altra faccia, non riescono a liberarsi, rimangono paralizzati e non parlano a casa perché quasi sempre, nella grande maggioranza, le famiglie di provenienza sono molto cattoliche, quindi c'è la paura di andare contro un precetto familiare. 800 24 0024, sinceramente un po' me l'aspettavo, non fino a questo punto avrei immaginato che parlando del libro La preda di Angela Camuso, editore Castelvecchia, parla della storia dettagliata di un ragazzo abusato, concretamente abusato, di un processo molto noto avvenuto a Roma in questi anni, scatenasse una così profonda voglia di tirare fuori quello che per anni non si era detto. Stanno chiamando veramente tanti ascoltatori e ascoltatrici dicendo che questo era il grande rimosso alla loro vita, era una cosa di cui non volevano parlare, non avevano il coraggio di parlare. Come Giovanni, buongiorno. Ah, buongiorno dottore, oggi mi avete riportato indietro negli anni una cosa che avevo totalmente sotterrato nella mia vita. Mi ricordo questa mia infanzia a Palermo, alla chiesa di Santa Rita, c'era questo padre che mi voleva bene tantissimo, non so per quale motivo, forse perché ero senza padre. Allora ecco, mi ricordo che mi portò dentro il confessionale e cominciò a palpeggiarmi. Ma è una maniera incredibile. E poi io mi ricordo questa sensazione di vergogna, perché era il momento che la gente entrava in chiesa, era pieno di persone questa chiesa. Io ricordo che dopo di questo sono corso a casa, ho raccontato tutto a mia madre. Mia madre il giorno dopo ha combinato un casino, l'abbiamo urlato in tutti i modi. Quindi Giovanni, vede la prova è che l'istituzione, non è che l'istituzione in sé sia malata radicalmente, visceralmente, è che ci sono degli esempi, ahimè, che molte volte agiscono indisturbati. Basta che si faccia presente, o quella cosa venga fuori, quel ragazzo abbia i suoi strumenti per uscire dal muro dell'omertà, del silenzio, del detto e non detto, che poi normalmente il caso, non dico si risolve, ma perlomeno venne isolato. Luca, buongiorno. Luca? Pronto? Sì, sì. Veloce. Ah, buongiorno, senta, a me è successa una cosa che fra l'altro mi ha sempre... Sì, cerchiamo di stringere, diciamo, il caso senza girarci intorno, se abbiamo pochissimo tempo. Avevo 13 anni, esami di terza media, ero un po' a corto di latino, mia madre mi manda a ripetizione da un prete, questo prete il primo giorno, io rimango meravigliato, mi dice mens sana in corpore sano, e mi fa fare la ginnastica in mutande sulla terrazza della sua casa. Secondo giorno arrivo e vedo che inizia a farmi la lezione invece che seduto sulla sedia, mi fa sedere sulle sue gambe. Il terzo giorno torno per fare la lezione e vedo che c'è il letto pronto con il leggio e il libro per fare le ripetizioni. A quel punto ha lasciato perdere. Io esco di casa completamente, avviso mia madre, che già mi aveva avvisato di parlare, perché mia madre è sempre stata un anticlericale, se ci fossero state delle situazioni strane, al che dopo, il giorno dopo, mia madre... Non è necessariamente, c'è bisogno di essere anticlericali, sono normali attrezzature che si danno a un ragazzo in qualunque ambiente, un domani potrebbe capitargli anche in altri ambienti, quindi ha risolto la sua cosa. Bene, Cesare. Sì, buongiorno, sono io. Episodio, sì. Sì, allora io ho circa credo 11 anni e andavo in colonia come signore che ha accennato prima, c'erano i lettini in questa camerata, il prete dormiva praticamente in una tenda separata e io la sera lo vedevo entrare nel letto dei miei compagni, ma pensavo fosse semplicemente delle coccole, no, che un adulto fa ai bambini. Invece poi qualche tempo dopo all'oratorio del paese praticamente ha tentato di abusare con me, si è spogliato, io non so come sono scappato via. E poi non sono più andato al rotor da quel giorno. E quindi per fortuna questa mattina abbiamo tutte persone che hanno avuto gli strumenti per uscirne. Don Claudio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei è un superiore dei Salesiani. Io sono superiore dei Salesiani a Milano, puoi immaginare... Don Bosco ritorna tra i giovani ancora, ti chiamano frementi di gioia sì, d'amore. Gioia d'amore, sì. Che però non vuol dire quello, non vuol dire quello che abbiamo sentito questa mattina. No, assolutamente. Io voglio esprimere che la sofferenza anche che così è stata raccolta in questo libro... non dico la parte sana, dico chi ha il cuore sano e si immagina che appunto ti vengono affidati dei giovani, dei ragazzi perché possono crescere con la felicità nel cuore, se a causa nostra, se a causa di un salesiano, se a causa di un prete, la felicità sparisce e piombano in questo gorgo di inequizia, di oscurità. Lei che farebbe, Don Claudio, se sentisse una voce legata a un suo confratello? Io prenderei questo confratello, lo porterei, come è stato detto, davanti alla giustizia, non soltanto quella di Dio, ma anche quella degli uomini, perché non deve capitare che il volto di Don Bosco, il cuore di Don Bosco, venga deturpato nel cuore dei ragazzi, perché questo è il punto, cioè dov'è la faccia di Don Bosco? È nel cuore dei ragazzi. Deturpare un ragazzo con un gesto che lo segna per sempre significa ferire nel suo cuore il volto di Don Bosco. Lei ne ha mai sentito parlare di questo alone sinistro e molte volte aleggia intorno agli istituti dove stanno ragazzi? Forse roba del passato, non lo so. Del passato, ma soprattutto ho sentito ripetere spesso l'esperienza del collegio, della colonia. Sicuramente in questi ambienti molto chiusi ci deve essere stato un clima di questo tipo che ha favorito, che ha ingenerato situazioni di questo tipo. Per quanto ne so io, e per l'esperienza che sto vivendo anche come superiore, non soltanto si è girato pagina, ma proprio un atteggiamento di quello che dicevo prima, cioè l'istituzione è il cuore dei ragazzi. Le sono grato, la sigla ci porta via. Grazie Don Claudio, grazie Angela Camuso. La Preda, Confessione di una vittima, edizione Castelvecchi. A domani.